Diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, la rubrica in cui incontriamo gli artisti e le artiste coinvolte in Linea d'aria e chiacchieriamo con loro riguardo alle loro opere e al loro abitare i luoghi del festival. Bentornate e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici a Radio Live per la nostra rubrica Diorama, in cui incontriamo gli artisti che partecipano in Linea d'aria, che sono qui, insomma, in residenza ormai da qualche giorno a lavorare. E oggi che siamo ormai sono talmente ubriaco di chilometri che non mi ricordo più nemmeno dove siamo. Siamo a Siamo a Cigliano. Cirigliano, Tennessee. Esatto. Arkansas, anzi, qui con noi c'è Antonella Iallorenzi, compagnia Petra, che insomma abbiamo avuto modo di incrociare qualche giorno fa. Ormai quanti giorni sono che Un sei? mese, Un non è un mese che sei qui, mese. Antonella. Io avrei detto 3 anni. Domenica. Ecco, domenica, era solo domenica. Intanto benvenuta ai microfoni di Radio Grazie, Live e grazie grazie a voi. per insomma, averci concesso un po' del tuo tempo. Io inizierei con una domanda di rito che facciamo un po' a tutti, diciamo, a prescindere anche da questa specifica edizione. Il vostro lavoro di cosa tratta, come nasce, da che pensiero nasce, prima poi di arrivare a parlare nello specifico su come si sta declinando in questo contesto. Noi siamo ritornati nel mio paese di origine, dove abbiamo fondato una compagnia teatrale nel 2014, non sono tantissimi anni, e venivamo da un lungo percorso a Lecce che ci aveva portato anche, grazie ad una compagnia di produzione, in giro per il mondo. Quando siamo tornati, lo abbiamo fatto, siamo tornati nel mio paese che ha 2.400 abitanti, Satriano di Lucania, perché vedevamo in quel vuoto, in quel nulla, una grandissima possibilità. Cioè, quello che gli altri dicevano: qui non c'è niente, che siete venuti a fare? Quel vuoto da riempire era una grandissima capacità di poter immaginare, sognare, incontrare, riempire. Ed è quello che stiamo facendo da quando siamo ritornati nel 2014, attraverso diverse azioni e diverse declinazioni del nostro vedere e del nostro sentire. Per cui ci occupiamo della nostra comunità, non solo del nostro paese, ma anche di quella dei paesi limitrofi, aree interne, così come vengono definite, paesi che hanno 2.400, 1.800 abitanti, sono molto isolati, per arrivarci bisogna fare diversi chilometri, monadi che dialogano tra loro in qualche modo, e cerchiamo di trovare le modalità per farlo. Ci occupiamo di produzione, pensiamo, immaginiamo lavori destinati a diversi target e li costruiamo di solito con quei target, con i bambini, con gli adulti. Lavoriamo in carcere da 8 anni e creiamo un percorso di cortocircuiti, ponte tra il dentro e il fuori, cercando di portare artisti dentro e cercando di far attraversare le mura dalla bellezza che riusciamo a creare dentro. E questo è quello di cui ci occupiamo di residenza artistica e arriviamo a questo punto ad oggi, perché per la prima volta io sono stata ospite come artista in un paese in Basilicata che non è il mio, e devo dire che questa cosa mi ha molto toccato, sconvolto, incuriosito. Perché di solito invece nel nostro paese, a Satriano di Lucania, avendo girato per tanti anni, avendo incontrato tanti artisti, tante realtà anche in Europa, all'estero, volevamo attirare verso quel luogo del possibile altri artisti, e da 4 anni facciamo un progetto di residenza dove ospitiamo e mettiamo in connessione le persone tra loro, che siano artisti, fabbri, sarte, spettatori, ragazzi, a ragionare, a lavorare su un'idea, su un fuoco artistico. Non so Giovanni se vuoi proseguire tu, perché io se no chiederei ad Antonella, diciamo, come sta andando proprio il lavoro nello specifico qui a Cirigliano, come è stato l'incontro, il contatto con la comunità e anche in qualche modo come sta dialogando con il vostro processo creativo, se lo sta influenzando in qualche modo, immagino di sì, insomma, se lo sta trasformando rispetto alle aspettative che avevate. Sì, noi abbiamo da poco debuttato con un lavoro dedicato ai ragazzi che si chiama Into the Border, che lavora sul tema del limite, che è un tema molto cruciale per noi, nel senso che ci stiamo lavorando tematicamente da diversi anni. Il nostro progetto di teatro in carcere si chiama Teatro Oltre i Limiti, l'ultimo spettacolo Into the Border, e per i prossimi anni lavoreremo su un progetto che si chiama La Trilogia del Limite, di cui Into the Border è la prima tappa. Quindi il limite è un tema molto cruciale per noi. Arrivare in questo paese ci ha posti nelle condizioni di ragionare sul limite in modo inedito, quasi inaspettato, perché è un paese arroccato, dove il limite, che sentiamo in questo momento come un elemento che ti porta agli estremi, che ti porta verso qualcosa che è anche pericoloso, che ti porta ad un sentimento che è anche la rabbia, che è qualcosa che è l'anticamera della fine, era qualcosa che non avevamo previsto. O meglio, c'era da qualche parte, ma non era così evidente, non era consapevole. E invece vivere qui ci ha fatto mettere a fuoco questo tema come il tema che sta alla base di tutto, come una brace che è nascosta sotto la cenere, ma che poi prende, come dire, dà vita a tutto quello che abbiamo fatto fin qui in questi giorni. Perché in realtà l'obiettivo era quello di incontrare gli abitanti del paese e di porgli una domanda, che era come vivono l'elemento della natura, come vivono l'elemento naturale, come sono in contatto con la natura. Le risposte sono state tantissime, ci hanno portato anche fuori, come dire, dal nostro focus, da quello che avevamo immaginato, anche come griglia per un esito. Ci siamo lasciati condurre da loro, non siamo stati noi a condurre. E quindi abbiamo incontrato tantissime persone in momenti diversi. Non abbiamo fatto, come dire, una call dicendo venite alle 15. Mm-hmm. Non è stato possibile farlo, perché noi eravamo, come dire, un corpo estraneo in un paese di 200 abitanti che ha bisogno anche con grande lentezza di creare dei momenti di incontro. Il primo giorno l'abbiamo speso a bere caffè, a raccontarci. Dopo abbiamo preso degli appuntamenti in cui abbiamo iniziato ad entrare in connessione vera, chiedendogli, facendogli anche delle domande un po' più che andavano a fondo. Il terzo giorno è stato il giorno dell'esplosione. Abbiamo lavorato 20 ore su 24, perché ci portavano a vedere quel luogo caro, ci portavano a visitare quell'azienda, ci portavano in un bosco, ci portavano a visitare una... C'è stato il momento vero dell'incontro. Il quarto giorno è stato il momento della sintesi, che si avvicina in qualche modo alla sintesi alla fine, perché abbiamo iniziato a scrivere insieme. Quindi le loro parole, i loro racconti, da soggettivi abbiamo cercato insieme di farli diventare oggettivi, perché la loro storia potesse prescindere dai loro volti, dalla loro voce, dalla loro storia personale, potesse diventare metafora anche per altri. Ed è questo quello che stiamo facendo in questo momento, cercando di mettere insieme questi pezzi di un puzzle che ancora non vediamo, ma che speriamo domani di poter dare come unica lettura. Penso che sia molto interessante di questo racconto della tua esperienza, anche un po' la metodologia che avete applicato in qualche modo, no? Cioè quest'idea di partire non direttamente dal lavoro in senso stretto, ma da comunque un contatto, un incontro quasi precedente al lavoro, non so come dire, semplicemente dal mettersi in ascolto, in dialogo, in relazione con una comunità, con un luogo. E questa sembra una cosa scontata, ma non sempre lo è, no? A volte il meccanismo dell'artista in residenza sembra quasi una cosa che può diventare o rischia di diventare come teletrasportare una bolla da qualche parte e in qualche modo incontrare la comunità solo all'interno di una struttura che è già magari molto rigida e molto predefinita, che quasi rischia di prevenire l'incontro piuttosto che favorirlo, no? In qualche modo. Invece diciamo che mi sembra che il vostro approccio, il vostro racconto sia stato di segno completamente completamente inverso rispetto all'imporre già una forma alla relazione, ma a lasciare che in qualche modo sia la relazione poi a dare forma invece a quello che poi vedremo, insomma, all'interno del vostro lavoro. A riguardo avrei una domanda, perché hai detto una cosa che mi ha molto interessato, ovvero hai spiegato che non siete stati voi a condurre il lavoro, ma sono stati loro a condurvi, e quindi immagino anche la mole di narrazioni che vi hanno portato e diciamo i luoghi che vi hanno descritto. La domanda è quale limite artistico, per appunto per l'esito artistico, anche in virtù della traduzione radiofonica, avete posto a questa valanga di narrazioni individuali? Li abbiamo circoscritti nel limite di un episodio, diciamo così, traendo da ognuno un pezzo della drammaturgia che stiamo in qualche modo intessendo, per cui un sogno è diventato questa tavola che i radioascoltatori non vedono, ma è una tavola che è come davvero un'ultima cena, e abbiamo messo insieme quindi tutti gli elementi che loro ci hanno dato, intessendoli in una drammaturgia unica. Potevamo continuare, ci sono tantissime persone che non abbiamo incontrato, nonostante davvero essere in un paese di 200 persone ti pone a contatto con tutti, non è come in una città dove ce ne sono tanti, troppi, e qui davvero abbiamo incontrato i 4 adolescenti, i 13 bambini, le 2 suore, cioè sono quelli i numeri, le 7 mamme dei bambini che vanno all'asilo, cioè sono quelli lì, e quelli li abbiamo presi proprio come target unico. Allora abbiamo dato un limite, purtroppo anche temporale, no? Ieri ancora ci dicevano, ma non avete intervistato Salvatore, ma la signora Genzi non l'avete... Dobbiamo darci questo tempo, e quindi ci siamo dati questo limite per chiudere e setacciare, mettere insieme tutti quanti gli elementi, e facendo anche con una sorta, come dire, cioè il nostro lavoro... E questo è un lavoro di selezione, cioè il nostro lavoro artistico è stato questo, selezionare, e sarà quello di intesa, lo dico al futuro perché ancora, vi dicevo prima, non ci sono ancora gli elementi, soprattutto dando voce a queste persone, c'è poco di, poche azioni, perché il tempo del racconto, il tempo dell'incontro è stato molto più lungo e ha richiesto molto più tempo per creare un'empatia di quello dell'azione, quindi a un certo punto abbiamo deciso che dovevamo rinunciare all'azione e dedicarci più all'ascolto, alle parole, quindi sarà un lavoro che radiofonicamente sarà molto più facile da narrare. Ok, dunque abbiamo parlato insomma della traduzione radiofonica del lavoro, adesso anche al di là diciamo dello specifico proprio del lavoro, ed è una domanda che stiamo rivolgendo un po' a tutte le persone che incontriamo, ma penso che nel caso tuo sia particolarmente interessante, perché sei sia un artista che tra tutte le realtà artistiche sei quella geograficamente proprio più vicina e che opera in una realtà più simile a quelle in cui siamo qui durante il Festival Linea d'Aria. La domanda è, noi in questi giorni, incontrando le varie persone comuni, autorità eccetera, spesso ci confrontiamo col problema del stiamo vivendo un momento critico in queste comunità a causa della tendenza di spopolamento che vediamo in qualche modo come ineluttabile, soprattutto i giovani se ne vanno per carenza di opportunità eccetera eccetera, e la domanda un po' è tu cosa credi che sia auspicabile, diciamo, per queste comunità? Allora, è una risposta complessa perché molto attuale, cioè è proprio questo il momento che di pensiero, di flusso che stiamo vivendo. Parlo al plurale perché con me c'è Raffaella Giancipoli che ha condotto e ha curato la parte della drammaturgia, della raccolta delle storie, e Angelo Piccini che cura la parte di visione, sia luci, ma non delle luci o delle scene, proprio della visione delle immagini. ho dovuto far riferimento ad un'altra crisi simile che ho vissuto quando ho iniziato a vivere a lavorare in carcere. Ogni volta che io uscivo dal lavoro, dal laboratorio, sentivo sbababum la porta che si chiudeva dietro di me, no? Le prime volte era atroce perché io tornavo nella mia vita, nella mia casa, nella mia libertà e lasciavo loro dentro. Ed era veramente uno squarcio per me poter capire come fare per gestire nel momento del lavoro con i detenuti e anche il momento dell'assenza. E lo devi fare nel momento in cui sei lì con loro, devi anche creare una competenza per gestire l'assenza. La stessa cosa mi sto rendendo conto sto facendo in questi giorni, perché questi momenti, queste bolle di cui tu parli, possono essere tanto intense e positive quanto negative, perché ti lasciano ancora di più un vuoto che ti fa sentire il silenzio dopo. Allora, parli dal punto di vista di chi vive qui o sì, anche dell'artista? Di tutti e due, di tutti e due. Raffaella mi diceva che adesso è fuori, è andata via, andando via, prendendo la discesa per andare via di qua, ti senti una... cioè, dopo aver vissuto 4 giorni con loro che ci portano a destra, a sinistra, a bere caffè, noi abbiamo fatto ufficio nel bar di Stella qua sopra, veramente stamattina stavo a scrivere il testo con lei, la gente entrava. Questo vivere... immersivo da parte nostra ma anche da parte loro, no? Allora bisogna fare uno sforzo, perché altrimenti è una violazione del loro quotidiano quella che noi facciamo, non dovrebbe essere così. Quindi vivere il momento del saluto, dell'assenza già durante il lavoro che si fa è fondamentale. Questo perché percorsi come questi, in cui piccoli luoghi così periferici possano godere della vitalità che questa nostra ricerca, come quella degli altri artisti che stanno negli altri paesi, può dare, devono poter avere la possibilità di sentirli riverberare anche dopo, come una vitalità, perché questo è quello che io sento che più manca in questi luoghi, dove davvero per strada c'è poco. Dove non c'è la novità, dove non c'è il cosa dirsi, dove non c'è il cosa raccontarsi, dove non arriva qualcuno a generare un dialogo nuovo, una faccia nuova, un ma chi è quello? Allora, questa vitalità che abbiamo vissuto deve poter continuare ad esserci fino alla prossima occasione, perché poi le occasioni vanno portate e rigenerate continuamente. Perché è solo questo quello che può salvare questi luoghi. Poi le politiche di investimento su il welfare, il lavoro, le opportunità, i luoghi, sì, ci sono. Noi siamo all'interno dell'ex scuola. Ma voi non vorreste avere uno spazio come questo dove lavorare? La ludoteca qua a fianco è uno spazio stupendo, pieno di giochi e di cose, ma chi lo vive? Quando lo vivono? C'è una piscina qui sotto con un albergo, più sopra ci sono tantissimi servizi che potenzialmente possono essere vitali per un comune, per una comunità. C'è bisogno di momenti in cui si crea una vitalità e che siano sempre di più e che possano generare in chi vive qui quella vitalità tale da poterla da poter creare un contagio. Infatti spesso, sai, riguardo a queste questioni del welfare, no? Per esempio, tanti dicono i giovani se ne vanno perché non c'è lavoro, però poi loro stessi si rendono conto che dicono vabbè, però anche se ne vanno comunque poi il lavoro è precario, quindi in qualche modo c'è già sotto traccia una consapevolezza che in qualche modo nemmeno il welfare può bastare, nemmeno il lavoro, l'offerta di lavoro, i servizi possono bastare. Allora quello che tu dici in qualche modo di creare esperienze che riverberino producendo degli altri effetti, no? Non lo so, a me comunque risuona come una possibilità molto, molto interessante, anche se molto difficile, insomma, no? È investire su una cosa che ha i connotati anche dell'invisibile per certi aspetti. Sì, tieni conto che il progetto di residenza, ad esempio, che facciamo noi nel nostro comune, mette a disposizione una cosa cosa che per gli artisti è fondamentale, che è questo tempo, un tempo dilatato di ricerca, un'accoglienza. Allora, se questo diventasse una posta, come è stato in passato, così come il sindaco ci racconta sempre, una sosta per i viandanti, era questo in passato, può diventare sistematico. Cirigliano è un luogo di residenza artistica in cui c'è uno spazio, una comunità accogliente, un tempo dilatato, un alloggio, si mangia benissimo, un luogo in cui gli artisti vengono isolati dalle proprie dimensioni quotidiane a lavorare, a fare ricerca artistica. Non c'è bisogno di un investimento economico enorme, c'è bisogno soltanto di una visione che vada in quella direzione. Sono perfettamente d'accordo. A voler fare l'avvocato del diavolo, però, difficile sarebbe poterlo replicare, questo tipo di modello, per ogni comune della zona. Non lo so, cioè, ci sto pensando, però effettivamente potrebbe essere una possibilità, anche perché la vedo molto come una risposta alla domanda cosa può un artista non fare, che funzione può avere un artista, ma nel tuo ragionamento effettivamente l'artista può avere la grande responsabilità, che però poi va condivisa con la comunità del paese che lo ospita, a creare una narrazione che non sia una narrazione, diciamo, di evento, ma una narrazione che invece crei quella continuità e quelle che fa sì che il riverbero continui ad esserci, perché fino a quando si fa una residenza, una tantum, una comunità può spegnersi perché non riesce, diciamo, a riconoscersi nella narrazione a volte. Quindi torna anche all'argomento sui limiti. Che limiti può porsi un comune come Cirigliano nel chiudersi oppure nell'aprirsi? E in questo modo la collaborazione può soltanto ipotizzare molteplici definizioni di un nuovo confine. Un po' come il rapporto tra natura e uomo, e quindi immagino che anche il lavoro che avete fatto la comunità, con le loro esperienze personali o anche i racconti del passato, il rapporto con la natura è cambiato nei secoli, negli anni, decenni, sì. Gli anni. Mentre parlavi, Giovanni, a proposito di rapporto con la natura, dalle finestre della sala in cui siamo si vedeva uno splendido falco che era rimasto a volteggiare a mezz'aria esattamente lì dietro quella finestra. Questo sì, i nostri radioascoltatori purtroppo non possono vederlo, però credo che anche questo abbia a che fare con Cirigliano. E sì. Io sono di spalle, quindi non so. Scusate l'interruzione, quindi, ma è stato protagonista per un momento l'animale selvatico proprio mentre parlavi della natura. Ma poi voglio dire anche un'altra cosa, che c'è stato un momento durante questa residenza in cui ho avuto la percezione, lo dicevo prima, da qualche parte, che si vive, in alcuni momenti ho avuto la percezione di vivere l'anticamera della fine. Forse l'ho già detto prima, l'ho già detto, no? La fine non è una cosa per forza negativa. Accettarla è la prima strategia perché ci sia un'evoluzione naturale. Quindi opporsi continuamente alla fine di qualcosa non credo sia la strategia giusta. Sai che questa è una riflessione che molti altri artisti con cui abbiamo parlato stanno facendo in modo simile, e che anche noi in qualche modo in questi giorni in macchina spesso ci troviamo a fare, no? Una delle altre domande è proprio necessario cercare di fare ogni cosa per impedire che ogni cosa finisca? Non è necessariamente così, no, insomma, abbiamo un grave problema con la fine, che però non ci permette di metabolizzare quello che stiamo vivendo, perché siamo sempre all'interno di della stessa narrazione e non sappiamo quando finisce il libro, che inevitabilmente può portare sia un esito negativo e positivo, ma questo è, come dire, la vita, come la natura, che può prendere la decisione sempre a causa di effetti che noi abbiamo creato. Però se ci sono alluvioni, se ci sono temporali, c'è comunque una precisa, come dire, narrazione che ha una fine. Sì. No, ma È una sensazione chiara, cioè vivendo qui questa settimana è una sensazione che percepisci, la possibilità della fine, come una delle pagine, no? Come una delle narrazioni. È chiaro che poi l'uomo tende cioè, alla sopravvivenza in generale, quindi anche quello che ci viene raccontato tende ad essere bello, tende ad essere pacificante, tende ad essere... A non voler fare brutta figura, però è uno dei lati di questo caleidoscopio, cioè è evidente, anzi, secondo me, proprio sta lì sotto. Però cioè, fa parte, non lo abbiamo negato e non ce lo siamo negati, quindi è una delle riflessioni, Certo, assolutamente. io personalmente credo che ci sia anche un valore tutto sommato in questa sorta di pudore quando si racconta la propria comunità, no? Di non volerla far sfigurare in qualche modo, una cosa che sicuramente noi, anche noi umbri, abbiamo parecchio, anche se noi tra di noi ne parliamo sempre malissimo, Eh ovviamente, sì, però ma certo. all'esterno è diverso. D'altra parte, sicuramente questo sentimento è percepibile, quasi in maniera non verbale, non so come dire, o Sì. da segni e atteggiamenti che, insomma, evidentemente circolano, no? Ma infatti mo mi sta venendo in mente con il discorso dell'anticamera della fine e quello che stai dicendo tu, Silvio, quando noi... Tipo io che rappresento un parolone, però io rappresentante in questo caso, in questo momento, in questa stanza della Campania, della provincia di Caserta e anche di Napoli perché ci vivo, quando parlo di Napoli e gli altri, con il pudore di cui parlavi, io è come se stessi raccontando il lieto fine, che però non c'è, cioè, ancora, perché Napoli non è finita, no? Continua ancora, si sopravvive. Però invece quando poi nella mia comunità, con i napoletani, gli amici napoletani, amici, amiche, parliamo male, ci riesce molto più facile. E quindi noi tendiamo a trovare alternative a questa narrazione, ma non ci riusciamo perché siamo in pochi, ci mettiamo insieme. Quindi è un po' come se ci fosse sempre questo desiderio, anche se noi ormai siamo cresciuti, siamo anziani, non crediamo più alle favole, però siamo eternamente legati a questo lieto fine, che però alla fine non accettiamo la fine e sappiamo che non siamo in una lieta situazione. Guarda, io qui l'ho sentita diverse volte questa sensazione, quindi è come se ci sono dei luoghi che hanno un'abitudine maggiore a percepirlo. Lo senti nei silenzi, lo senti nel predominare della natura rispetto agli elementi dell'uomo. Cioè, se ti affacci e stai fuori, senti molto di più il vento, la pioggia, gli animali che macchine, trattori, aerei, taxi, ma cioè, ieri camminavamo per strada, diceva Raffaella, Raffaella, mettiti in mezzo. La signora mi ha detto, se chi passa qua, una macchina ogni tanto, cioè questo rarefarsi dell'uomo, il predominare dell'assenza, c'è. Quindi ci sono dei luoghi in cui è più facile sentirla questa cosa. E ti dà anche la possibilità, come dire, di rifletterci. Poi ci sono storie che ti dicono il contrario, che ancora questo è tutto possibile, che anzi questo è stato un possibile, questo luogo è stata un'ancora di salvezza, è stato un luogo dove ricominciare, cioè ci sono storie alternative, però, come dire, convivono continuamente C'è una l'innovazione. tensione tra queste polarità. Continue, sì. Così queste come tante altre polarità. Io ho qui davanti, loro non possono vederlo, ma sono ossessionata da questa immagine, questo campetto sintetico che è una prua verso il bosco, verso Gorgoglione, verso l'infinito, verso l'altrove. Questo per me è metafora di questo luogo, un campetto perfetto, sintetico, come prua verso l'altrove. È la storia dei nostri giorni, quello che dicevo prima, un luogo bello ma vuoto. Possibilità, ma chi le vede, chi è questo. Io penso che su questa immagine del campetto sintetico come prua verso la foresta, questa intervista, questa puntata abbia raggiunto il suo apice. Credo che possiamo anche avviarci verso un ricordo che alla locanda qui vicino ci avevano promesso una pasta col guanciale e il pistacchio. E insomma, credo che Minindo, ce la siamo guadagnata. possiamo anche fare pubblicità. Possiamo fare, prego, Minindo, Cirigliano, Mulino. 200 abitanti, e la signora che l'altra volta, domenica sera, ci ha fatto Un un antipasto, antipasto solo che è durato quello. 2 ore e mezza. Ringraziamo Antonella Iallorenzi Grazie a e voi. per i radioascoltatori e le radioascoltatrici, alle 18 venerdì, cioè domani, Umana Foresta. E quindi potete ascoltare e seguire lo spettacolo. E invece per chi è Ci di vuole più, raggiungere qui in esatto. presenza a Cirigliano, ci vediamo sempre alle 18, ovviamente. Grazie a tutti, grazie.